Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astore. Buongiorno, buongiorno, buongiorno e buona domenica a tutti. Oggi parliamo di meccanica, anzi per la precisione di meccatronica, e ne parliamo per darvi delle buone notizie, perché c'è un fatto: questo settore, che è quello principale dell'economia italiana, non i vestiti, non il food, non il bio e non tutta quella massa di retorica e di melassa che proprio non se ne può più, ma è il principale dell'economia italiana, io ve l'ho detto in 2 anni di trasmissione, ha fatto nel primo trimestre del 2017, secondo l'Istat, dei numeri pazzeschi. Dunque, io vi leggo qualcosa sulla produzione metalmeccanica. Metallurgia più 1,9%, prodotti in metallo più 5,4%, computer, radio, TV, medicali più 1,8%, apparecchi elettrici ed elettrodomestici più 0,3%, macchine e apparecchi meccanici più 2,2%, autoveicoli più 9,7%, metalmeccanica più 3,8%. Questi dati vanno letti insieme ad altri dati che vi ho dato nelle trasmissioni scorse sull'aumento della meccanica strumentale, l'aumento delle macchine utensili, l'aumento dei robot, e ci fanno dire che la ripresa è cominciata, e che non vuol dire che tutto va bene, perché ci vorranno anni prima di tornare ai livelli pre-crisi, ma comunque la ripresa è cominciata e il nostro settore principale sta andando benissimo. Pensate un po' quello che vale la meccanica: 1,6 milioni di dipendenti, 100 miliardi di valore aggiunto, 400 miliardi di fatturato, 200 miliardi di export, 60 miliardi di attivo della bilancia commerciale. Inoltre, la meccanica è l'architrave del manifatturiero, che fa sì il 16% del PIL, ma comunque indirettamente con i servizi, la finanza che muove, arriva a fare il 60% del PIL. Di tutto questo ne parliamo con un imprenditore meccanico tra i migliori, che si chiama Diego Andreis, che commenterà questi dati e poi ci parlerà del suo progetto Italia Meccatronica. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, come le vede lei, che è un imprenditore ma che è anche in carichi associativi, questi dati così brillanti sulla meccanica o meccatronica o quello che vorremmo chiamare, spiegheremo dopo perché. Allora, indubbiamente sono dati positivi, ha già lei anticipato il peso della meccanica in Italia, sono dati positivi che vanno anche interpretati, vanno interpretati nel senso che sono guidati fortissimamente dall'export, con una crescita dell'8,9% sul trimestre dell'anno precedente, con una forte crescita su Germania, Spagna, Cina e Stati Uniti, che oggi cuba il 10,8% dell'export italiano, ponendosi alle spalle della Germania. Sì, l'export è la metà Germania. Di tutto questo circa. Assolutamente. 200 miliardi su 400 di fatturato. Esattamente, siamo al 50% d'export, per cui una crescita del 10% dell'export fa essenzialmente i numeri che abbiamo visto. Quindi questo è un aspetto molto importante da considerare. E l'altro aspetto da considerare è che nelle statistiche che le leggeva, il 9,7% degli autoveicoli rimane trainante. Come sappiamo, l'industria del veicolo è un'industria in qualche modo ciclica, per cui... È sempre stato così, da quando esiste, dall'Ottocento, va su per degli anni e poi va giù. Esatto, per cui insomma abbiamo dei buoni numeri che nascono da una crescita sull'esport, che vuol dire sostanzialmente... dal fatto che le altre economie stanno crescendo e quindi la domanda sta crescendo, ma che anche noi siamo in grado di soddisfarle. Dall'altra parte, di un mercato degli autoveicoli che è ciclico, per cui noi dobbiamo essere positivi sulla lettura di questi numeri, ma dobbiamo anche stare attenti e quindi essere in grado di rifar partire la domanda e l'offerta sia a livello domestico sia negli altri settori. E questo si fa con gli investimenti, le aziende devono investire. E questo si fa assolutamente con gli investimenti. I primi dati che abbiamo sentito di quest'anno sono positivi, per cui sembra che il piano Calenda, quindi il piano 4.0, stia dando i suoi frutti. La richiesta e quindi la domanda di beni strumentali è indubbiamente cresciuta, noi stessi ne stiamo facendo largo uso. Quindi questo è sicuramente positivo, ovviamente per cavalcare quest'onda della trasformazione digitale che l'industria si trova a percorrere, servono investimenti, quindi servono infrastrutture, servono strumenti, ma poi servono anche persone. Questo è l'aspetto importante, delicato, di cui parleremo nella seconda parte della trasmissione, perché adesso ci sono gli avvisi sul traffico e la pubblicità e voi restate con noi. Non cambiate canale, a fra poco. Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea, stiamo parlando con Diego Andreis, che è un imprenditore della meccatronica, un'azienda che si chiama Fluidtech e che fa delle valvole anche microscopiche, capaci di fare fino a 100.000 gocce in un secondo, poi a vari incarichi associativi, e commentavamo gli incredibili dati positivi della meccanica, perché noi siamo un paese di meccanici e poi di chimici. Non siamo, non saremo e non dobbiamo diventare, non possiamo diventare un paese della moda, dei mobili, del food, del turismo e di tutta questa propaganda un po' come dire, stucchevole, e lì uso un termine che posso usare ai microfoni della radio in conversazioni private verso chi ci vuole condurre a questo. Pensate che solo il giro d'affari dei ristoranti stellati in Italia è 250 milioni di euro e Italy, che sembra un fenomeno di costume che risolve le sorti dell'Italia, sì, una cosa importante, sì, una bella azienda, ma sono appena 500 milioni di euro, meno di un decimo dell'esse lunga. Comunque, torniamo al nostro amico Andreis. Allora, bisogna investire, dicevamo. Bisogna assolutamente investire, diciamo che bisogna sempre investire, non bisogna aspettare chiaramente gli incentivi per investire. Noi personalmente come azienda non abbiamo mai smesso di investire, anche durante il periodo di crisi, dove addirittura abbiamo premuto sull'acceleratore. Però è evidente che oggi sono necessari investimenti più importanti, soprattutto in direzioni che sono meno, diciamo, meno tradizionali, perché questa trasformazione digitale non ha bisogno soltanto di investimenti nella macchina, nello strumento, nell'automazione, nel robot, ma investimenti in sistemi più complessi. Sistemi più complessi che aprono opportunità di crescita sulla qualità, sulla flessibilità, sulla velocità, sulla competitività, che però sono investimenti che sono più complessi, quindi più complessi dal punto di vista non tanto sulla della portata dell'investimento, ma nella sua gestione, per cui anche un termine di competenze. Per cui è chiaro che una politica di sistema che supporti, che incentivi questa direzione, è sicuramente abilitante. Ecco, il tema degli investimenti è un tasto dolente per noi in Italia, perché negli ultimi anni si sono ridotti in maniera drammatica. Per ogni euro perso dalla crisi, con la crisi ogni euro di fatturato perso, gli investimenti arretravano di 2,5 euro. Il punto è che c'è stata una scarsa propensione da parte degli imprenditori, e questo non si deve solo alla crisi. Ci sono delle imprese ferme, ci sono delle imprese, come le chiama il collega Paolo Bricco su Sole 24 Ore, che sono spiaggiate. Le imprese dinamiche che vanno all'estero, che esportano e che investono molto, alla fine sono il 20-30% del totale. L'Italia è spaccata in due e questo è un problema, forse è il problema, no Andreis? È assolutamente un punto molto molto rilevante. È chiaro che indubbiamente il rallentamento degli investimenti è dovuto anche a un tema di incertezza, ovviamente, incertezza su scala assolutamente globale, ma particolarmente importante su scala nazionale, e le conseguenze che effettivamente, come diceva lei, oggi il tasso di obsolescenza sui macchinari in Italia quasi non ha... All'età media di 13 anni. Sì, esattamente. È obsoleta questo... anche una fidanzata dopo 13 anni, figuriamoci un macchinario. Ma questo è il dato. Però il tema di questi due gruppi di imprese che viaggiano a due velocità completamente diverse, effettivamente è una grande questione. Noi tra l'altro a livello di associazione, quello che stiamo facendo è un progetto che si chiama Italia Meccatronica, che ha tra i suoi scopi anche quello di creare un senso di urgenza vero verso le imprese che non si stanno muovendo come dovrebbero. Assolutamente, è un progetto di riposizionamento dell'intero settore. Da una parte vuole andare a rappresentare proprio quel primo gruppo di imprese che invece anche durante la crisi hanno continuato a investire, a crederci, a scommettere, a internazionalizzare, ad innovare, a sperimentare, ma dall'altra creare anche invece un senso di urgenza verso quell'altro gruppo di imprese che durante la crisi e quant'altro c'erano tutti buoni motivi per rallentare sulla parte di investimento, ma oggi che i mercati stanno ripartendo, che il sistema Italia in qualche modo si sta mettendo in gioco per supportare queste, adesso gli imprenditori, anche non solo loro ovviamente, ma anche gli imprenditori devono fare la propria parte. Questo senso d'urgenza che stiamo andando a creare. Ecco, ma spieghiamo bene che cos'è questo progetto Italia Meccatronica a partire dal nome, Meccatronica. Perché è così importante dirsi meccatronici e non più meccanici? La meccatronica è, come diciamo noi, la meccanica del futuro, perché oggi si assiste a una convergenza sempre più di meccanica, informatica ed elettronica, non soltanto all'interno dei processi per quelle grandi macchine complesse su cui l'Italia è campione, ma sempre di più all'interno degli stessi prodotti che noi veicoliamo sul mercato. E quindi questo, ecco perché il fatto della meccatronica. Una convergenza della meccanica, dell'elettronica e dell'informatica. Esattamente. Per fare questo è chiaro che dobbiamo cambiare testa noi imprenditori, ma soprattutto abbiamo bisogno dei giovani, quindi delle nuove generazioni, e per cui quella è proprio la considerazione da cui siamo partiti, la metalmeccanica, e abbiamo fatto anche un'analisi del percepito condotta da Solombarda, è associata oggi nello stereotipo culturale a un qualcosa di vecchio, obsoleto, sporco, pericoloso, e quindi assolutamente non attrattivo per le famiglie, non attrattivo per i giovani. Invece l'industria, nella sua evoluzione che sta compiendo, è una realtà davvero meravigliosa e affascinante, dove appunto convergono tutte queste discipline, per cui che merita assolutamente l'attrattività che invece oggi ha. Ecco, questa è la meccatronica. Invece il progetto Italia Meccatronica, che cosa si propone? Italia Meccatronica parte appunto del riposizionamento del settore, che ovviamente non è un settore legato soltanto a Solombarda, ma è un settore assolutamente tutto italiano, quindi si pone appunto di rappresentare, valorizzare intanto l'industria meccatronica Italia, e con meccatronica ricordiamo che io intendo in senso più lato, perché rientra tutta la meccanica qui all'interno, quindi il riposizionamento, quindi il riconoscimento delle imprese, del loro percorso, creare questo senso d'urgenza. Perché bisogna fare in modo che queste aziende, che come dice Bricco sono spiaggiate, vadano verso il mare invece di avanzare verso la spiaggia. Assolutamente, vanno rifatte ripartire, e noi riteniamo che ci siano assolutamente tutti oggi gli ingredienti sul tavolo per farle ripartire. Certo, senta, voi come Fluidotech, avete raddoppiato il fatturato nel giro di 3 anni. Come avete fatto? Per noi la ricetta, diciamo che non è mai cambiata, nel senso che noi abbiamo sempre reinvestito tutto all'interno dell'azienda, con una grandissima cura per la qualità, per cui per come facciamo le cose, qualsiasi cosa noi facciamo, e con una grande attenzione all'innovazione, quindi allo sviluppo tecnologico, alla leadership tecnologica che svolgiamo sia internamente ma sempre di più creandoci un ecosistema per l'innovazione, quindi in una rete dove entrano partner tecnologici, università, esperti, centri di ricerca. Ecco, voi avete circa 70 milioni di euro, no, di fatturato? Sì, il 2016 si è chiuso così. Ma mi risulta che avete messo in preventivo ben 5 milioni di euro di investimenti solo in impianti 4.0. Sono tanti soldi per un'azienda così. Sì, sul 2017 ancora una volta abbiamo premuto l'acceleratore, abbiamo obiettivi di crescita importanti anche nei prossimi anni in termini di fatturato, sono investimenti che in parte avremmo comunque fatto per supportare la crescita, ma in parte abbiamo assolutamente acceso legato al piano Calenda. Il piano Calenda è importante, forse però servirebbe una fase 2, no? Oh, indubbiamente a queste cose bisogna dare continuità, perché poi un conto è portarsi a casa lo strumento, ma è molto importante poi a partire dallo strumento impostare un percorso di sperimentazione, sviluppo e ricerca all'interno dell'azienda e col fornitore dello strumento per trarre sempre maggior valore. E indubbiamente a lato degli investimenti bisogna, e questo secondo me è il punto più delicato, affiancare un progetto sulle competenze, sulle skills e sui giovani, perché è fondamentale, perché altrimenti lo strumento da solo va poco lontano. Certamente. Dobbiamo chiudere. Saluto Diego Andreis, grazie. Grazie a voi. Saluto i radioascoltatori, il prossimo fine settimana sarà l'ultimo di questo ciclo, poi si ricomincia a settembre. Viva le fabbriche, viva i robot, viva l'acciaio. Buona domenica.